e la roteosa lingua dei santi caduti con i fiammiferi stavano per incendiare il vero cielo, si lacero di ben somministrati sermoni alla meglio, gioventù. Non la ostruzionata gioventù sa dire chi sarà suo padre che lo odia, ma essa sa riconoscere sua madre che l'ha allatta. Io vivrò con una moltitudine, ma rimarrò pur chiaro, disse quel pesce cane che ora non è più vivo, nel carattere di sorvolare sulle stelle. La mia volontà sia la regina delle stelle e delle notti. Io non ho nessun appello e nessun credo con cui cominciare il mio lungo appello. Dunque silenti siate, notti regali come il fiore che sfiorisce.